Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Che bello, oggi sono contentissimo di essere qui all'asilo, Drago. Oh, sono felice. Che bello. Dai, parliamo così di qualcosa di bambini, di sì, infatti, dai, allora. Infatti parliamo di Cronaca Nera. Eh sì, però parliamo anche di bambini, non preoccuparti, non fare quella faccia. Ma cioè, tu, parto allegro. Tu vai, eh sì, infatti, tu trasferisciti mentalmente in un parchetto, quello parchetto giochi per bambini americano nel Maryland. Bello, mi piace il Maryland, dai. Allora, e lì c'è stata una sparatoria. Cioè, ma... però non tra i delinquenti che vanno lì a spacciare, no? Cos'è? Oh, no. Drago! Attenzione, perché a sparare è stato un bambino di 5 anni che ha ferito un altro bambino di 4, capito? Ma come? Sì. Ma ci ha sparato con un'arma vera o come quella che abbiamo sentito? No, con una pistola, una pistola. Dopo aver capito quello che aveva fatto, poverino, è andato subito a nascondere la pistola a casa, però poi sono arrivati i poliziotti, lui si è messo a piangere e ha confessato. Ah, vabbè. E invece il bambino di 4 anni? Lui se la caverà, però se l'è vista brutta, è stato preso al torace. Ma allora non lamentiamoci quando qui si ficcano le dita negli occhi. Vabbè, insomma, anzi, incoraggiamo le dita negli occhi. Incoraggiamo le dita. Sì, l'indice e il medio a formare un unico blocco e poi l'affondo nel bulbo oculare, in entrambi i bulbi oculari. Ah, tu vuoi, così. Che c'era la barzelletta, ti ricordi quella di Pierino che diceva prova a mettermi le dita negli occhi che aveva imparato la mossa del karate. È molto facile spiegarlo in radio. Alla radio immagino. E allora metteva tutto la mano di una mano di taglio appoggiata sopra il naso. Sì. Se tu provi a colpire gli occhi non ci arrivi con l'altra mano. Certo, no? Le dita non però sono abbastanza lunghe. Però basta fare così con l'altra mano. Ah, ho capito. Vabbè, Tito, insomma, ho capito. Comunque, chi vuole capire che cosa ho detto può guardare su YouTube il video che spiega le dita negli occhi. Sì, ma infatti non è il caso di dare istruzioni così precise, K. Perché anche se non imparano a ficcarsi le dita negli occhi, noi siamo contenti lo stesso, se stanno lì tranquilli, ma, eccetera. Sì, ma se non si ficcano le dita negli occhi poi si sparano. Ma cosa devi scegliere? Ma nel Maryland, sud degli Stati Uniti, mica qui nella civilizzata Europa. Ah, è una questione culturale. Ma certo, ma qui nessuno si sognerebbe di tenere una pistola carica in un cassetto con un bambino di 5 anni che gira in casa. Dai. Invece nel Maryland sì. Evidentemente sì, cosa vuoi che ti dica? Il fatto è che il metal detector dovrebbero usarlo dappertutto, anche i giardinetti. Ma come il metal detector? Ma certo, scusa, una bella guardia giurata con un bel metal detector e una bella pistolona nella fondinona. Ah, beh, sì. E poi vedi che nessun bambino osa entrare armato nel giardinetto, cioè, nel parco giochi. Non entra più nessuno si fa più vedere. Sui gonfiabili, sì. Sui gonfiabili poi le pistole non va bene, buchi il gonfiabile. Ma è certo, e poi insomma cosa vuoi fare? Se non entra lo so, un bambino armato, entra armato, usa, al massimo parare. Si spara con una... Hai ragione. Non sai dove andare a parare. Non so proprio dove andare a parare. E allora chiudiamola qua, se vuoi ti metto due dita negli occhi. No, grazie. E ora, bambini, ricreazione! Ema! Ema! Allora, per chi non lo sapesse, questo Ema che ha urlato così, non è che lo urlo a caso. C'è un prequel, no? Quindi faccio un riassuntino. Allora, questo Ema è un bambino, che ha una madre terrificante, è tremenda, che non gli parla mai. Quando gli rivolge la parola, Ema! Allora, ma sei deficiente! Ma tu sei un minorato, eh! Ema! Lascia stare i piccioni! Guarda che lo dico a papà, eh! Perché, parentesi, papà di Ema è un camionista. Ma non un camionista che fa a Milano Gallarate a portare 4 uova! No, quello fa avanti e indietro, Milano Bielorussia avanti e indietro 24 ore! E quindi li monta, Bielorussia Milano. Andate e ritorno e poi da un po' vi girano le balle. Se poi avete a casa un bambino come Ema, che voi è povero, non fa niente di male, però, diciamo, che lui non lo vede mai. Che lui non sa neanche praticamente com'è. Però riceve SMS dalla madre, l'arpia, che dice, guarda che tuo figlio, dice, che figlio? Ema! Dice, ah sì, Ema! Questo tuo figlio oggi mi ha fatto dannare. Per favore, visto che tu sei il padre, e lui dice, boh, sarà sta roba del padre. Visto che tu sei il padre, stasera gli dici 4 tu. Dico, vabbè, questo qui, dirle 4, cioè, capisce, devo prendere la massa ferrata sotto e darle giù, che le do giù. E li monta, e dice, sto figlio che già ho i dubbi che non lo sapevo, cioè, che non lo sapevo di averlo. E più fai danni in casa, adesso io qui lo schiaccio a tavoletta, vado a Milano, appena entro in casa, Ema! E poi al buio, perché arrivo di notte, non vedo, e comincio a menare così, al buio, fendenti alla cieca, no? La madre è nascosta in bagno nel postiglio, perché sa, quando lui arriva, che lei gli ha dato il messaggio che è mai stato cattivo, vuol dire che già ha tirato fuori la mazza ferrata. Si ferma prima del caseo di Melegnano, si ferma un attimo, scende, tira fuori la mazza ferrata che ce l'ha fissata sotto il camion, in un accrocchio, perché è un'arma impropria. E lui è un camionista, non può girare con qua, va in Bielorussia con la mazza ferrata. Allora, prende la mazza ferrata, sale su, l'ascensore è rotto, e già, qui adesso basta. Sale sulle scale, porta spalancata dalla madre che favorisce l'azione del padre. Prima di nascondersi nel ripostiglio, mette il bambino sul divano proprio in linea col padre, che entra, non deve neanche dire dov'è il bambino? No, è lì davanti. Entra con la mazza ferrata, si lancia verso Eva, e lì bisogna vedere, perché uno dice, ormai qui, cos'è che può succedere? La mazza ferrata è già in volo, il bambino è immobile, e quello ve lo dico la prossima volta, perché così era se la suspense, no? Come santo con la tigre. Tac, prossima puntata. Ma come la prossima puntata? È tutta la settimana. Lei a scuola dirà, allora, ma sto santo con la tigre. È morto la tigre o è morto Sandokan? E che dice, ma se è morto Sandokan, poi è tutto finito. Però ti rimane sempre il dubbio. Magari è morto Sandokan, è la Madonna. È perché la morte fa parte della vita. Chiedo asilo. Kappa. Dove vanno a dormire i separati, appena separati, quando la rottura si è appena consumata? Residence. Al residence, bravo. Allora. La lugubre fase del residence accomuna un po' tutti quelli che hanno avuto qualche crisi coniugale. Chi una notte, chi un mese, chi anche anni, tutti separati hanno conosciuto l'accoglienza neutra e cloroformizzata del residence. Un poeta, Drago, sei un poeta. Sì, però la poesia finisce qui, perché ora ti faccio un'altra domanda. Dove vanno a dormire le modelle appena maggiorenni in arrivo dalla Lituania, dalla Lettonia e dall'Estonia, che devono restare in città solo per qualche notte? La butto lì, al residence. E bravo! E quindi al residence si incrociano i mariti appena separati e le modelle baltiche appena maggiorenne. È proprio così, è una miscela esplosiva. Infatti il fenomeno dei colpi di fulmine al residence è sempre più frequente. Ovviamente il colpo di fulmine colpisce solo i neoseparati. Ma stiamo parlando di sesso. È un po' sì. Però è una cosa che colpisce solo loro, i maschi, capito? Questi appena separati vedono i modelli. Ma che ne sai? Magari c'è qualche modella lituana che ha voglia di cambiare vita e mettere su famiglia. Vabbè. Arriva a 19 anni, ah, certo, con bella come un fiore, vede un quarantenne con la pancetta, magari con un futuro da povero, anzi sicuramente con un futuro perché? Da povero. Cosa, che ne sai tu? Quando divorzi automaticamente l'80% dei soldi che avevi prima vanno via in alimenti, cazzate varie. Quindi quei poveri cristi del residence stanno lì a cercare di farsi passare il magone, d'accordo, per la storia d'amore finita e tutto quanto, ma soprattutto cercano di dimenticare il fatto che stanno per entrare nel tunnel della povertà. Vabbè, ma ci sono le modelle. Ma le modelle li guardano, passano oltre. Loro invece, gli ex mariti, le guardano. Loro invece, scusa, loro vorrebbero che nascesse un improbabile amore sotto il segno del residence. Purtroppo sì, è così, purtroppo è così. Vabbè, allora facciamo gli auguri ai nostri coetanei che sono nella cupa fase del residence. Sì, poverino. Un po' triste che la moglie auguri non c'è più, però. Ma non lo so, di ritrovare la moglie, di lasciare il presto il residence, capito? Di trovare una sistemazione, un amore lì al residence, però sì, all inclusive, sì, già tu, che sono lì, scusa, c'è la modella, infatti ti lavano anche per terra, ti puliscono la stanza, ti rifanno il letto, non sarebbe male. Per un po' residence per tutti, quindi parola d'ordine di oggi, la musica dei residence, i residence, facciamo musica tipo così, no? Esatto. Se vi piace la musica del residence, che sarebbe com'è la musica del residence, con insomma, le modelle ritmica un po' ripetitiva, poi arriva un certo culmine e poi finisce. Chiedosilo 324.it.